Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Vogliamo parlare di 5 Stelle? Facile ora, eh? Facile di... Oppure vogliamo parlare della Lega? No, la Lega no. Ma tra l'altro Salvini non si vede più. Era in tutte le trasmissioni, ora a chi l'ha visto, secondo me, perché... Così ironizza Renzi sui suoi avversari, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Parleremo molto di politica anche questa sera. Renzi a tutto spiano alla Festa dell'Unità a Modena, da cui ha parlato, e poi alle 21 e qualcosa sarà invece la Festa dell'Unità a Bologna, dove ci sarà un confronto particolare, perché ci sarà questo confronto, incontro, scontro, come lo vogliamo chiamare, tra Renzi e il presidente dell'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani. Sapete che c'erano stati questi contrasti, questi screzi sulla questione del referendum. Poi c'è un altro capitolo delle turbulenze all'interno del Movimento 5 Stelle, perché Roberta Lombardi, che è una delle esponenti quasi fondatrici del movimento, almeno per quanto riguarda Roma, del Movimento 5 Stelle romano, ha attaccato la Raggi, ha detto Marra, il suo uomo fedelissimo, vice di capo di gabinetto prima e poi invece ricollocato al personale, dice infetta il movimento, come un virus che infetta il movimento. Ma Grillo ha difeso la sindaca Raggi, ha detto non si tocca alla mia fiducia. Quindi insomma ce ne sono di temi politici, però parleremo naturalmente, come sempre qui a Effetto Notte, anche di altri temi. Su tutti potete esprimere le vostre opinioni, le vostre osservazioni alla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure con il numero per gli SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Tra l'altro, per quanto riguarda le presidenziali americane, torna in campo dopo il malore domenica scorsa Hillary Clinton, la diagnosi è polmonite. Questa cosa potrebbe costarle qualche punto di svantaggio su Trump, secondo l'ultimo sondaggio pubblicato da Los Angeles Time. E intanto Trump dice: io ho un certificato buono, anche se risulta molto sovrappeso e col colesterolo. E capire insomma come mai negli Stati Uniti ha così importanza sapere lo stato di salute dei aspiranti governanti. Insomma, in Italia non è esattamente la stessa cosa. Quindi voi con i vostri commenti e le vostre osservazioni, vi dicevo, pagina Facebook di Effetto Notte, il numero per messaggi e WhatsApp, e passiamo subito ai titoli più importanti. Crescita economica, Confindustria taglia le stime sul PIL, i numeri del governo saranno migliori, assicura Padoan. RAI, l'autorità anticorruzione contesta l'assunzione di alcuni dirigenti, su nomine di alcuni manager accusa l'ANAC carenze e irregolarità, e il sindacato dei giornalisti replica censura senza precedenti. Referendum, Renzi apre alle opposizioni, annuncia che la data sarà fissata dal Consiglio dei Ministri del 26 settembre, stasera intanto confronto a Bologna dopo i contrasti col presidente dell'Associazione Partigiani. Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi attacca la Raggi sul fedelissimo Marra. È un virus che ha infettato il movimento, dice, ma Grillo replica, Virginia non si tocca. Il dramma di Tiziana Cantone, funerali senza telecamere per la 31enne suicida. 4 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Stati Uniti, dopo il malore Hillary Clinton torna in campo. Sto molto bene, assicura, ma Trump, in sovrappeso e col colesterolo, la sorpassa nei sondaggi di 6 punti. E sempre negli Stati Uniti la polizia spara e uccide un 13enne afroamericano. Aveva una pistola ad aria compressa. Tragedia sul lavoro, un operaio a Piacenza è stato investito e ucciso, scontro tra sindacati e PM, la procura dice è stato un incidente stradale, ma i sindacati di base dicono è un omicidio padronale. Sport, Paralimpiadi, un'altra medaglia per Zanardi, argento nell'individuale in linea and bike, argento anche per Mazzone. E per il calcio, in campo 4 squadre con l'Europa League, hanno giocato la Roma, che ha solo pareggiato a Plzen, e il Sassuolo Show a Bilbao con 3-0. In campo adesso ci sono Inter e Fiorentina. Partiamo quindi dal tema della crescita economica dell'Italia. Il centro studi di Confindustria taglia le stime sul prodotto interno lordo, sulla ricchezza del paese. Il ministro dell'economia Padoan però risponde che nel documento di economia e finanza le stime saranno migliori. Stime del centro studi di Viale dell'Astronomia che registrano la frenata della crescita. Il PIL del 2016 si fermerà allora ad un più 0,7%, era più 0,8%, e nel 2017 al più 0,5%, era previsto al più 0,6%. E la crescita nel prossimo anno, avverte Confindustria, non è scontata e va conquistata. Dopo un quindicennio perduto, spiegano gli industriali, il paese soffre oggi di una debolezza superiore all'atteso. Con queste premesse diventa dunque cruciale la prossima manovra economica, per la quale quale, avverte Confindustria, è assolutamente necessario negoziare in sede europea margini di flessibilità aggiuntivi. In caso contrario si dovrà intervenire sui saldi con una correzione di oltre 16 miliardi. È vitale poi proseguire con le riforme, dice il presidente Boccia. Perché l'appoggio al referendum da parte di Confindustria è quello che adesso sintetizzato, e non voglio ripetermi, la stabilità di un governo, esattamente la precondizione per un'agenda di medio termine di politica economica, che significa non scambi e non sussidi, ma un paese competitivo. Confindustria tifa Italia. Spero che il governo abbia previsioni migliori delle nostre, aggiunge Boccia, che rilancia la disponibilità degli industriali per un patto per la crescita. Le nostre stime dovrebbero essere migliori, replica il ministro dell'economia Padoan, perché confidiamo nella bontà delle misure in cantiere. Ridurre le tasse, rafforzare la sostenibilità della finanza pubblica, sostenere l'occupazione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora il documento dell'ANAC, dell'Associazione dell'Autorità Garante Anticorruzione, sulle nomine RAI. Nessuna delle ultime assunzioni in RAI, tranne una, voluta dall'amministratore delegato Antonio Campo Dall'Orto, ha rispettato le procedure di reclutamento previste dal regolamento anticorruzione. Questo è il verdetto contenuto nella delibera dell'ANAC, che fa seguito a un esposto del sindacato RAI Usigrai del 27 aprile scorso sull'arrivo in azienda di 21 dirigenti esterni, tutti in posizioni strategiche. L'autorità presieduta da Raffaele Cantone ha accertato il mancato utilizzo dello strumento del job posting, cioè dell'annuncio di posti vacanti, fatta eccezione per la procedura relativa alla posizione di Roberto Bagatti, preso da Discovery. Inoltre si segnalano carenze formali e sostanziali per 11 procedure su 12 con riferimento alle ricognizioni interne. Nessuna gara interna, insomma, ma chiamate dirette ad personam. La politica: con il referendum Renzi apre le opposizioni, dice fate proposte, annuncia che la data sarà fissata nel Consiglio dei Ministri del 26 settembre e stasera a Modena alla festa dell'unità, ma soprattutto a Bologna sarà, dopo i contrasti con il presidente dell'associazione Partigiani Smuraglia, ci sarà questo confronto. Ne parleremo a breve nel corso di Effetto Notte, come vi dicevo, così come del nuovo capitolo che tocca il Movimento 5 Stelle relativamente alla giunta romana. Roberta Lombardi attacca la sindaca Raggi sul fedelissimo Marra, dice un virus che ha infettato il movimento, ma Grillo replica: Virginia non si tocca. Si schiera a difesa della Raggi e assicura che tutto il movimento la sostiene. Virginia non si tocca è l'eloquente titolo del post pubblicato da Beppe Grillo poche ore dopo il durissimo attacco di Roberta Lombardi. Questa mattina, infatti, la deputata grillina, che a luglio aveva abbandonato il mini direttorio romano per contrasti con il sindaco, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un post infuocato nei confronti di Raffaele Marra, fedelissimo della Raggi. Qualcuno si è autodefinito lo spermatozoo che ha fecondato il movimento. Si legge: io penso piuttosto che sia il virus che lo ha infettato, un attacco rivolto in realtà alla Raggi, alla quale Lombardi chiede trasparenza sulle due nomine di Marra e di Salvatore Romeo. Poiché la trasparenza è un valore del movimento, scrive la deputata, sono sicura che il sindaco pubblicherà subito i pareri dell'ANAC in suo possesso su queste nomine. E intanto proprio oggi il presidente dell'ANAC Cantone, testimoniando al processo per mafia capitale, ha affermato che in Campidoglio non c'è stata una sostanziale discontinuità tra le mani Marino nell'affidamento degli appalti e di non aver mai individuato o segnalato alle procure ipotesi di 416 bis, cioè l'associazione di stampo mafioso. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso il caso della 31enne Tiziana Cantone, di cui abbiamo parlato molto anche ieri, che si è suicidata per la diffusione di un video hard e oltre un anno poi ha avuto di insulti, di sbeffeggiamenti, di persecuzioni. Presto i magistrati ascolteranno l'ex fidanzato, due i fascicoli aperti, ci sono già degli indagati. Intanto a Casalnuovo, nel Napoletano, si sono celebrati i funerali. All'uscita della chiesa il sussurro della mamma di Tiziana è una preghiera al mondo. È necessario agire, implora, per fermare questa violenza di massa sul web. Dentro e senza l'occhio delle telecamere, la comunità di Casalnuovo piange sulla bara bianca di una donna travolta dalla vergogna dopo la diffusione di video hard sui social. Mancano invece i suoi amici, a cominciare dai quattro indagati già dall'anno scorso per diffamazione. Atto dovuto dopo la querela di Tiziana, quando quei video privati che lei aveva condiviso con loro erano diventati virali. Forse all'origine di tutto il desiderio di un dispetto a Sergio, il suo ex fidanzato, come avrebbe lei stessa raccontato ai PM che l'hanno ascoltata 11 mesi fa. Aveva chiesto pure il blocco di un sito, ma la procura l'aveva respinto perché ormai quelle immagini erano state già scaricate ovunque. E poiché Tiziana non ne aveva esplicitamente vietato la diffusione, non c'erano per i PM neanche gli estremi per la violenza privata. Così lei è diventata preda dei leoni da tastiera, per dirla col sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia. Utilizzano il mouse a mo' di pistola, dovrebbero avere delle pene esemplari. Abbiamo più telefonini che abitanti alla drammatica riflessione del parroco. È malata la società, non comunica più. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso una tragedia sul lavoro, la morte dell'operaio avvenuta a Piacenza. Per la procura non c'è dolo, per il sindacato invece si è trattato di un omicidio padronale. Sono opposte le posizioni di procura e sindacati sulla morte dell'operaio egiziano di 53 anni, travolto e ucciso da un tir davanti alla GLS di Piacenza mentre era in corso un'accesa vertenza tra unioni sindacati di base e vertici dell'azienda. Un incidente senza alcun dolo per la procura, un assassinio padronale per i sindacati che per domani hanno proclamato 2 ore di sciopero nazionale a fine turno di lavoro per tutti i settori privati. Il conducente del tir, un 43enne italiano, era indagato a piede libero per omicidio stradale. La testimonianza del fratello della vittima. È stretto come un ferristiero, poi è andato avanti, è preso di qua fino a 5 metri, scacciato delle schiene e il camion e l'autista ha preso della gamba, poi continuo ad andare più avanti, hanno preso, hanno sbottato 5 metri continuo, poi scacciato la gamba, poi la testa, è venuto lì, è fatto apposta, poi sono andato a vedere, tutto sanguinava. Intanto il ministro del lavoro Poletti, che ha incontrato i rappresentanti dell'USB, ha confermato l'impegno ad aumentare vigilanza e legalità nei luoghi di lavoro, ma ha detto spetta alla magistratura accertare dinamica dei fatti e responsabilità connesse. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero adesso, Indonesia, la Farnesina. Il Ministero degli Esteri italiano ha reso noto che a seguito dell'esplosione dell'imbarcazione avvenuta oggi a Bali, in Indonesia, l'ambasciata d'Italia a Giacarta si è subito attivata per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani e si conferma al momento la presenza di 4 connazionali a bordo, 2 risultati illesi e 2 ricoverati in una struttura ospedaliera con fratture multiple, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'ambasciata è al lavoro per prestare ai feriti e ai familiari tutto l'aiuto possibile. Stati Uniti, Hillary Clinton ritorna in campo per la campagna elettorale dopo il malore accusato domenica scorsa e dopo la diagnosi di polmonite. Sto molto bene, ha detto con i giornalisti a bordo del volo diretto in North Carolina. Intanto il Los Angeles Times pubblica un sondaggio in cui Trump risulterebbe in vantaggio sull'avversaria democratica di 6 punti e questo è uno dei temi di approfondimento per capire come mai negli Stati Uniti ha così importanza il fatto di avere trasparenza anche sul proprio stato di salute. Restiamo negli Stati Uniti. In Ohio la polizia spara e uccide un ragazzino nero di 13 anni. In Ohio l'intervento della polizia per arrestare i presunti responsabili di una rapina a mano armata si è trasformato nell'omicidio di un ragazzo di 13 anni. Secondo il racconto degli agenti, la pattuglia aveva individuato un gruppo di ragazzi che rispondeva alla descrizione dei rapinatori. Quando li hanno avvicinati, Tyree King ha fatto per estrarre qualcosa dalla cinta, forse la pistola ad aria compressa che aveva con sé, e un agente gli ha sparato più volte, uccidendolo. L'episodio si inserisce in una lunga serie di omicidi di neri da parte delle forze dell'ordine statunitensi, non sempre giustificati dalla legittima difesa. Si temono nuove tensioni nel paese dopo le manifestazioni e gli scontri dei mesi scorsi. Daniele Zinni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la Turchia. Nei prossimi 5 anni la Turchia ha in programma, pensate, di costruire 174 nuove carceri. Nei prossimi 5 anni 174 nuove carceri per un totale di 100.182 posti aggiuntivi. Lo fa sapere il Ministero della Giustizia di Ankara. La capacità massima attuale delle prigioni turche, secondo le stime, è di circa 190.000 posti. 2 settimane fa quasi 34.000 detenuti condannati per reati minori sono stati rilasciati per fare spazio agli oltre 20.000 arrestati finora in relazione, vi ricordate, al fallito golpe del 15 luglio e con tutte le epurazioni che ci sono state. Immaginate questa necessità in 5 anni di fare 174 nuove carceri. In Francia, scontri a Parigi tra polizia e manifestanti al termine del corteo contro il Jobs Act nella capitale francese. Vicino a Place de la République, dove è arrivato il corteo partito dalla Bastiglia, un manifestante e 5 poliziotti hanno riportato delle ferite. Domani a Bratislava, per quanto riguarda l'Europa, si svolgerà il Consiglio europeo. I paesi del gruppo di Visegrad, cioè Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, sotto la guida del primo ministro ungherese Orban, intendono mettere sul tavolo la revisione dei trattati europei. L'obiettivo è dare agli Stati membri più potere, diminuendo il ruolo della Commissione. E oggi intanto sul tavolo dell'incontro tra il ministro degli esteri del Regno Unito Boris Johnson e il nostro ministro Gentiloni, l'incontro che si è svolto a Firenze, Johnson ha posato tutte le questioni sull'uscita dall'Unione Europea per la Brexit. Non potremo mai contemplare l'idea di introdurre dei visti, ha detto Johnson. Vogliamo avere il maggior numero di accordi di viaggio senza visto in tutto il mondo ed è un tema molto diverso dal tema dell'immigrazione, ha detto Johnson. Vogliamo lasciare i trattati ma non l'Europa. Insomma, moglie ubriaca e botte piena. Cronaca, una ragazzina di 11 anni, torniamo in Italia, è volata giù dal quarto piano della sua abitazione in via dell'Industria alle Palombare di Ancona, è finita su alcuni cassonetti e poi caduta sull'asfalto. I primi soccorsi sono stati prestati da un vigile del fuoco, suo vicino di casa, che ha assistito al fatto. È arrivato il 118 carabinieri, l'undicenne è in grave condizione, è stata trasportata all'ospedale, secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un incidente. Per chiudere lo sport, ancora una medaglia per Alex Zanardi dopo l'oro di ieri nella prova a cronometro. L'ex pilota ha conquistato la medaglia d'argento nella gara individuale in linea di handbike alle Paralimpiadi di Rio. Argento anche per Luca Mazzone. Per Zanardi si tratta della quinta medaglia paralimpica, 2 ori e un argento a Londra, 1 oro e un argento qui a Rio. E per il calcio invece vi dicevo che è la prima giornata della fase a gironi dell'Europa League. Per quanto riguarda i risultati delle squadre, in campo intanto ci sono Inter-Fiorentina, la Roma ha pareggiato 1-1, mentre il Sassuolo 3-0, quindi ha fatto veramente uno show. Direi che ci dobbiamo lasciare perché tra poco Capuano. Giovanni, scusami Giovanni, stavo guardando io velocemente i risultati, ma sei tu che devi aggiornare. Volevo dimostrarti che ero pronta. Sì, certo. È un giovedì sera che sta dando soddisfazioni al calcio italiano. Lo hai detto tu, soprattutto la vittoria del Sassuolo 3-0 sull'Athletic Bilbao. Per il Sassuolo era il debutto assoluto nella fase finale dell'Europa League, di una competizione europea. I gol di Lirola, De Frel e Politano, tutti nel secondo tempo, contro l'Athletic Bilbao, che è una delle migliori squadre spagnole. 1-1 tra Victoria Pilsen e Roma. La Roma si era portata in vantaggio con Perotti dopo 3 minuti su calcio di rigore. Il pareggio all'11esimo di Bacos. Questo per le partite che si sono giocate alle 19. Come dicevi, in campo in questo momento ci sono Inter e Fiorentina e sono entrambe sullo 0-0. La Fiorentina sta facendo una partita equilibrata a Salonico contro il PAOK e tra l'altro Paolo Sosa ha limitato il turnover, ad esempio davanti gioca Kalinic che è il titolare, mentre l'Inter, che è impegnata a San Siro contro gli israeliani dell'Apoel Beersheva, sta sinceramente abbastanza deludendo. Siamo al 13esimo, ma nei primi 10 minuti gli israeliani, che sulla carta sono nettamente inferiori alla squadra di De Boer, sono andati 2 volte vicinissimi al gol del vantaggio, con 2 disattenzioni della difesa dell'Inter e 2 occasioni per Taha e soprattutto per Lucio Maragnao, che è il centravanti dell'Apoel, che di testa ha messo la palla fuori davvero di pochissimo. Dunque 0-0 ancora a San Siro tra Inter e Apoel Beersheva, 0-0 a Salonico tra PAOK e Fiorentina, ma come detto fin qui è stato un giovedì soddisfacente per il calcio italiano. Grazie Giovanni Capuano, poi ci aggiorniamo più tardi mentre vanno avanti almeno queste 2 partite. Intanto arrivano i vostri messaggi. Roberta, non dire la Raggi come non dice il grillo, a parte che qualcuno dice anche il davanti al maschile. Diciamo che sarebbe meglio che non ci fosse l'articolo davanti al femminile per una questione di parità, come si dice, no, di genere anche nella lingua, però purtroppo siccome si usano i cognomi e molti intendono o sottintendono che si tratti di maschile, il soggetto lo si considera sempre maschile, per le donne è vero che Raggi è famosa ormai, è notoria insomma, però a volte per dover riconoscere si parla di un uomo o di una donna o si mette il nome davanti o si mette l'articolo. Poi un altro ascoltatore chiede: il nome non era Tiziana Catalano? No, è Cantone, non so dove l'hai sentito Catalano, della povera 31enne che si è suicidata. 349-238-6666 per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte. Qualcuno scrive a proposito di Trump e di questa battaglia per certificati medici alle presidenziali americane, dice Cristiano sulla pagina Facebook di Effetto Notte: Delano Roosevelt governò senza gambe, viene ricordato fra i più grandi, ma era un altro tempo. Oggi se in aereo non attraversi 4 stati in un giorno, se non mostri attenzione, prontezza, autorità, hai rotocalchi addosso in mezzo minuto. Trump, dice, un soave impresentabile, ma la Clinton è un rincalzo tristissimo. Insomma, questo, opinione personale, ci sentiamo tra pochissimo. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Allora, specifico l'ascoltatore che chiedeva sul 349-238-6666, non era Tiziana Catalano, in realtà tutti i media parlano di Tiziana Cantone, lei aveva preso sì il cognome della madre, era Catalano perché voleva appunto essere dimenticata, ritrovare una sua identità, insomma sfuggire da questa persecuzione costante, quindi Catalano il cognome della madre. Poi invece gli altri messaggi sempre sulla questione, anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sulla questione della, di questa battaglia a colpi di certificati medici per le presidenziali americane, Giorgio dice: sì, ma una polmonite, se non è rivelatrice di qualcosa di molto grave, non dovrebbe incidere, a mio giudizio, la salute di un personaggio politico con grandi responsabilità e pressioni deve permettergli di agire senza menomazioni di sorta. Da un punto di vista mediatico avrebbe fatto meglio a rivelarlo e tranquillamente a tranquillizzare tutti, insomma, Hillary Clinton. Adesso vi ricordo anche tutte le altre notizie più importanti del giorno. Referendum, Renzi apre alle opposizioni e dice il voto forse il 27 novembre. E intanto l'ANAC, l'autorità anticorruzione, sulle nomine dei manager Rai dice ci sono carenze e irregolarità. Confindustria lima le stime della crescita, il ministro Padoan dice i nostri dati sono migliori. E poi Roberta Lombardi per il Movimento 5 Stelle che attacca Raggi o la Raggi, e Magrillo dice Virginia non si tocca, a tutta la mia fiducia. La deputata Lombardi ha attaccato il fedelissimo Marra, dice un virus che ha infettato il Movimento 5 Stelle. Europa divisa, si cerca un compromesso almeno sul post Brexit, la Gran Bretagna promette tempi certi per l'uscita dall'Europa. Intanto per le presidenziali americane Trump in sovrappeso e col colesterolo, però sorpassa Hillary Clinton, sembrerebbe di 6 punti secondo l'ultimo sondaggio. E poi il suicidio di Tiziana, 4 indagati per diffamazione. A Piacenza un operaio investito e ucciso, uno scontro tra sindacati e PM su come sono andate le cose. Negli Stati Uniti la polizia uccide un 13enne nero che aveva un'arma ad aria compressa. Questo è successo in Ohio, quindi l'ennesimo caso di un afroamericano ucciso dai poliziotti. E poi dopo l'oro, argento per Zanardi alle Paralimpiadi di Rio. Iniziamo quindi subito con la politica italiana. Due fatti principali oggi: da una parte proseguono le turbulenze nel Movimento 5 Stelle legate soprattutto alla giunta romana e in particolare alle nomine in Campidoglio, e poi dall'altra Renzi che ha parlato alla festa dell'unità di Modena, ma soprattutto parlerà a momenti, credo, alla festa dell'unità di Bologna, in un confronto molto importante con Smuraglia, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, dopo i contrasti che c'erano stati un po' di mesi fa sulla questione del referendum con la ministra Boschi, che aveva detto i veri partigiani votano sì, eccetera eccetera. Ma partirei da Roberta Lombardi, esponente di primora del Movimento 5 Stelle, vi ricordate anche nei primi streaming con Bersani, con Renzi, deputata del Movimento 5 Stelle, che su Facebook ha attaccato il fedelissimo della sindaca Raggi, Raffaele Marra, definendolo il virus che ha infettato il movimento. Marra, vi ricordo, era stato nominato vice capo gabinetto della sindaca Raggi, e poi, siccome è piuttosto discusso, nel senso che aveva fatto parte della precedente anche amministrazione Alemanno, insomma è stato ricollocato, a un certo punto ha creato un malumore, è stato ricollocato come responsabile del personale. Carla Ruocco, un'altra esponente del Movimento 5 Stelle, ha condiviso il parere della Lombardi. Lombardi aveva chiesto tra l'altro a Raggi pubblica il parere dell'Associazione Nazionale Anticorruzione su Marra, però a metà pomeriggio oggi è intervenuto Grillo dicendo Virginia non si tocca, a tutta la mia fiducia. Ne parliamo con Alessandro De Angelis, commentatore politico dell'Huffington Post. Buonasera Alessandro. Ciao Roberta. Diciamo, non è il primo affondo questo di Roberta Lombardi nei confronti della sindaca Raggi, no? Però è il più pesante. È il più pesante, senz'altro. È il più pesante perché oggi ho usato una parola che è la parola chiave nel Post, la parola trasparenza, ed è sostanzialmente il core business dei 5 Stelle, e attorno a questa parola c'è tutta la crisi, no? Il partito che ha fatto, certo, della trasparenza la sua forza, che ha accusato gli altri delle segrete stanze, delle trame, che andava tutto in streaming. Qui di streaming c'è poco, c'è un conflitto molto forte, molto, molto lacerante, e nelle stanze del potere dei 5 Stelle, che ormai si trascina. Tu vivi a Milano, Roma è senza governo. Tu senti che è senza governo in questo momento, tu da Roma? Beh sì, perché di fatto il sindaco è affaccendato nel risolvere queste, trova una quadra all'interno, diciamo, del suo gruppo dirigente, ma c'è un assessore che ancora non viene nominato al bilancio, al bilancio, al posto di Minenna, e c'è il conflitto. Guarda, tu prima parlavi ricollocato Marra, vero, ricollocato, ma declassato? Meno vero, perché è comunque il capo delle risorse umane di un comune come Roma, ha 25.000 persone, gestisce 25.000 persone, è ancora un potere enorme. In questo momento la situazione di 5 Stelle è questa, cioè il sindaco, il suo cosiddetto raggio magico, no? Che è legato agli ambienti della destra romana, al mondo di Alemanno, lo ricordavi tu, il direttorio che si sta lascerando e Grillo che cerca di proiettare un'immagine all'esterno ancora compatta, ma nella realtà non c'è più. Senti, sentiamo Sibilia che cosa ha detto, esponente del Movimento 5 Stelle e componente del direttorio, che adesso vedremo se si allargherà o no, come ha annunciato nei giorni scorsi Grillo. Sentiamolo. La Lombardia ha scritto che vuole trasparenza come tutti. Secondo lei c'è stata trasparenza sulla gestione del caso Muraro? Secondo me sì. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare a livello di trasparenza, poi il sindaco fa delle scelte, come è giusto che sia, e lei è l'amministratrice e quindi decide politicamente cosa farne. Comunque Grillo ha, come dicevo, riconfermato, ribadito ancora una volta la sua totale fiducia in Virginia Raggi, no? Ha detto sta cercando di compattare, chiaramente deve anche ostentare. Sì, ma non c'è sicurezza. Un problema risolto, questo è il problema. Cioè, tu c'hai un assessore importante come la Muraro, che gestisce tutta la vicenda dei rifiuti, iscritta da mesi al registro degli indagati, ed è un assessore che ha peso evidentemente. Io, se dovessi fare una scommessa con te, poi magari ci sentiamo tra qualche settimana, la Muraro a mio giudizio non mangerà il panettone, come si dice in questi casi. E lì hanno non arriva a Natale, traduco. No, esatto, come si diceva una volta, ricordo, nella prima Repubblica, sì. Il governo mangerà il panettone. E lì il movimento ha taciuto e sapevano... E l'impatto è stato deflagrante. Poi un altro assessore pesantissimo, questo Minenna, si è dimesso, ne c'è trovato un altro, questo altro, tal De Dominicis, diciamolo perché non tutti gli ascoltatori sono romani, e che dice me lo ha chiesto l'avvocato San Marco, cioè l'avvocato amico di Previci, riapriti cielo, non nomina neanche quello, e non c'è l'assessore. Insomma, è una situazione molto, molto, molto complicata e io non capisco in mezzo a questo... a questo putiferio se il sindaco si stia occupando dei problemi della città. Comunque è una cosa complicatissima. Passiamo a Renzi adesso, sentiamo un passaggio di quello che ha detto. Quindi il 26 settembre ci sarà il Consiglio dei Ministri e deciderà la data, tutto come prevede la legge. Insomma, incalzato da diverso tempo Renzi, allora quando è questa, quando è che si vota questo referendum? Ha detto che si deciderà nel Consiglio dei Ministri del 26 settembre e probabilmente sarà il 27 novembre, se non ho capito male, quasi sicuramente, no? La data. Eh sì, ormai le date che ballano sono 20, 27 novembre, 4 ottobre da settimane, lo scriviamo questo tra appena, insomma. Dicevo, tra poco non mi pare ancora di vedere il collegamento, no, la festa dell'Unità di Bologna parlerà a Renzi ed è un incontro particolare perché ci sarà un confronto con il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. C'era stato uno scontro, no, mesi fa, perché quando insomma si cominciava a capire chi votava sì o no, si era citato anche l'Associazione dei Partigiani e la Boschi, la ministra Boschi, la ministra per le riforme, aveva detto in un'intervista i veri partigiani votano sì, e di lì apriti cielo, chiaramente, perché loro hanno detto noi votiamo un po' quello che ci pare, anche se mi pare che la loro direzione insomma dall'alto sia verso il no, poi lasciano chiaramente libertà di coscienza, no? Quindi sarà un bel incontro stasera. Cosa prevedi, Alessandro? Io prevedo che sarà un bel incontro e che Renzi sarà molto molto diplomatico, molto, cambierà molto i toni. Vedi, quando quella frase, i veri partigiani, faceva parte di un momento in cui, pochi mesi fa, il governo, il Presidente del Consiglio, il Ministro Boschi avevano trasformato questo referendum in una sorta di giudizio di Dio, come dicevamo noi, anche personalizzando molto. Renzi diceva o così o lascio la politica e poi sì contro no, il bene contro il male, i partigiani vedono sì, polemiche su Enrico Berlinguer, lì partì col piede sbagliato, no? Poi quando se n'è accorto, perché ha perso le regionali, ha deciso di prendere un po' più di tempo ed è il motivo per cui non abbiamo la data. Tempo per cambiare toni, come dicono che l'ha suggerito questo Jim Messina, questo guru americano. E quindi non dice più o così o me ne vado, dice se vince il no poi non è... Non è poi tutto, ci può anche stare, insomma, e poi ha detto sull'economia che sì, toni anche lì meno ottimistici, meno baldanzosi, e quindi questa sera cosa farà? Io immagino che davanti a un signore di 94 anni, molto per bene, molto educato, che sa parlare molto bene, uno che ha fatto la guerra partigiana, che sarà accolto con molto affetto dal popolo della sinistra, non dirà i veri partigiani votano sì e tu sei un partigiano falso, ma sarà molto inclusivo, molto affettuoso e io credo anche molto rispettoso. Vogliamo sentire se già qualcosa si sente alla festa dell'unità, sta introducendo l'Erner. E anche il linguaggio del confronto sul referendum costituzionale tra posizioni diverse che si collocano entrambe nel campo democratico e nel campo del centro-sinistra, superando quindi il dileggio, la caricatura. Sa che sta un po' andando avanti Gad Lerner, non so adesso a che punto, però intanto rispondi a questo ascoltatore tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, dice: anche se sono tutti morti abbiamo Lampi, ma perché non abbiamo la rappresentanza degli eroici ragazzi del 99, una rappresentanza dei garibaldini e forse sono meno validi degli arditi? Perché solo i partigiani? Io lo vuoi spiegare tu, Alessandro De Angelis? Diciamo innanzitutto perché ce n'è qualcuno vivo e soprattutto perché c'è poco da fare, la guerra partigiana, la resistenza è stato un evento fondativo della Repubblica, no? Hai detto bene, fondativo della nostra Repubblica. Fondativo della nostra Repubblica, la Repubblica nata dalla resistenza, era la formula che poi andava sempre meno di moda in verità. Però l'antifascismo produce la Costituzione repubblicana, lì ci sono le basi della nazione, le basi poi della Repubblica Democratica, dove viene introdotto il suffragio universale maschile e femminile per la prima cosa. Cioè la Repubblica Democratica non è solo la fine del fascismo, è una conquista più avanzata anche rispetto all'Italia liberale, no? Quella da cui può uscire il fascismo. Quindi in Italia nasce la democrazia, per questo nasce dalla guerra di resistenza, nasce da quello antifascismo. E poiché, tra l'altro, perché le dittature, il rischio di dittatura oppure di eccidi e di olocausti, eccetera, è sempre lì dietro l'angolo. Abbiamo visto anche nell'ex Jugoslavia, l'abbiamo visto, no? Il fatto di ricordare, di avere dei testimoni o anche coloro che portano un po' la staffetta, no? Se questi testimoni poi vengono meno perché passano gli anni, l'importante è dubbio, no? Il valore del ricordo. Senti, vedo sempre Gad Lerner che continua lungamente a introdurre lì alla festa dell'unità, quindi magari lo sentiremo magari dopo Renzi in qualche passaggio. Vediamo se c'è ancora qualche speranza, vedo che si gira col viso sul microfono, forse verso uno o l'altro. Vediamo. Sentiamo. Renzi è nato 30 anni dopo la liberazione, nel 1975, a 41 anni, fa il segretario del Partito Democratico e fa il presidente del Consiglio dei Ministri all'età di 41 anni. Carlos Muraglia. Mi sta presentando, Carlos, se qualcuno Muraglia non sapesse di anni sono. Ne ha più del doppio. Ne ha 93, è nato nel 1923 e tiene duro, all'età di 20 anni si arruolava volontario nel Corpo Italiano di Liberazione e successivamente nella 8ª Armata della Divisione Cremona. Oggi è il presidente nazionale dell'ANPI, dopo aver fatto l'avvocato, il parlamentare e il membro del CSM. Vediamo se dà la parola. Io adesso passo alle ragioni nell'ordine del no e alle ragioni del... No, niente, ce la facciamo. Alessandro De Angelis, mi dispiace, saremo più fortunati la prossima volta. Peccato. Te lo puoi godere per conto tuo e noi qualche volta vediamo se riusciamo ad alzare anche il cursore. Ciao Alessandro De Angelis dell'Huffington Post, grazie. Ciao buon lavoro, ciao. I vostri messaggi ancora, poi vediamo. Il fascismo sarà pure finito dando spazio alla Repubblica, ma fascisti o gli estremisti di destra esistono purtroppo, dice questo ascoltatore o ascoltatrice WhatsApp. Per esempio qui a Udine dice ci sarà una manifestazione contro i migranti domani, sì, mi pare di aver sentito qualcosa del genere, però noi ci dobbiamo fermare a questo punto, voi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp, SMS vanno al 349-238-6666, tra poco. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto e anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Intanto vedo che ha preso a parlare il presidente dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani, a Bologna, la festa dell'unità, il confronto con Renzi, smuraglia. Vogliamo sentire come parla con i suoi 90 anni? Vengo a seguire il filo del nostro ragionamento. Che cosa hanno voluto i legislatori costituenti quando hanno dettato questa Costituzione, che non sarà forse la più bella del mondo, come talora si dice, ma che è certamente una delle più avanzate del mondo, una Costituzione molto progredita e fatta per durare nel tempo. Lui difende il no al referendum e si confronta con Renzi nella festa dell'unità di Bologna, che invece, come sapete, naturalmente vuole che vinca il sì. Tra poco parleremo di Stati Uniti, della battaglia nella campagna elettorale per le presidenziali. Ancora vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Fabrizio dice, per esempio, a proposito delle condizioni di salute dei aspiranti governanti, è importante sapere chi veramente è, cosa vuole fare il candidato e che dimostri di voler aiutare il cittadino a informarsi sul suo operato. Poi Luciano, non sono io che devo conoscere la salute di un futuro premier, ma deve essere lui a rinunciare se non ci sono le condizioni fisiche. E poi molti altri messaggi, per esempio Cesare da Ferrara ritorna sul dramma di Tiziana Cantone, dice il fatto che si sia suicidata per il video hard, adesso tutti la ricorderanno solo per quello, se lo lasciava scivolare addosso può essere che tutti si dimenticavano e viveva tranquilla. E il fatto, Cesare, che nessuno si è dimenticato, l'hanno propagato all'infinito con mille sberleffi, sbeffeggiamenti, hanno addirittura fatto delle magliette con delle frasi che le diceva in questo video, quindi vi potete immaginare il tormento infinito, insomma. Ma adesso torniamo sui fatti principali della giornata. Crescita economica, Confindustria taglia le stime sul PIL, i numeri del governo saranno migliori, assicura Padoan. Rai, l'autorità anticorruzione, contesta l'assunzione di alcuni dirigenti, su nomine di alcuni manager accusa l'ANAC, carenze e irregolarità. Referendum, Renzi apre alle opposizioni, annuncia che la data sarà fissata nel Consiglio dei Ministri del 26 settembre. Questa sera in corso confronto a Bologna alla Festa dell'Unità, dopo i contrasti con il presidente dell'Associazione Partigiani che abbiamo sentito poco fa. Movimento 5 Stelle, Roberta Lombardi attacca Raggi sul fedelissimo Marra, è un virus che ha infettato il movimento, dice, ma Grillo replica, Virginia non si tocca. Il dramma di Tiziana Cantone, funerali senza telecamere per la 31enne suicida, 4 persone sono state iscritte nel frattempo nel registro degli indagati. Stati Uniti, dopo il malore, Hillary Clinton torna in campo. Sto molto bene, dice, di questo adesso parliamo. Sì, parliamo delle presidenziali degli Stati Uniti, con la candidata democratica Hillary Clinton e il candidato repubblicano Donald Trump, tra i quali ormai c'è veramente una battaglia a colpi di certificati medici. Hillary Clinton ha avuto, sapete, un malore domenica scorsa, si è scoperto che ha la polmonite, non l'aveva detto, questo negli Stati Uniti è insomma qualcosa che irrita molto gli elettori. In un primo tempo Trump ha usato il fair play nei suoi confronti, ha detto spero in una pronta guarigione, poi l'ha usata subito come arma contro la sua rivale. Evidentemente questo atteggiamento paga, nel senso si è volto a suo vantaggio di Trump, perché secondo un sondaggio pubblicato da Los Angeles Times, Donald Trump guadagna terreno su Hillary per quasi 6 punti. Trump registra il 47,2% al momento in questo sondaggio di preferenze, Clinton il 41,3%. Hillary è appena tornata, vediamo anche in una diretta per quanto riguarda riprende la campagna elettorale, dice sto molto bene e quindi evidentemente vuole riprendere da dove aveva lasciato qualche giorno fa. Però voglio chiedere a Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao. Prima di tutto Trump ha detto, no, durante questa trasmissione Dr. Oz Show, ha detto che è lui che ha 70 anni, quando mi guardo allo specchio direi che vedo una persona di 35 anni. Secondo te chi vede e dove ha comprato questo specchio? Sono domande di difficile risposta, come tante delle domande che ci possono fare sulle affermazioni di Trump. Direi che forse è l'unico a vedere questo. Un'immagine, evidentemente uno specchio magico, ma insomma ci ha abituato a dichiarazioni sorprendenti. Ha detto anche, ho visto la dichiarazione, che vuole creare 25 milioni di posti di lavoro. Quindi Berlusconi, quando prometteva 1 milione, era un po', diciamo, ribasso, un po' troppo moderato forse. Sì, forse è una questione di proporzioni, diciamo, dimensioni dell'Italia, dimensioni dell'America, diciamo moltiplicate per 25. Anche questo deve averlo visto nello specchio, comunque, perché è difficile, diciamo, tradurre in questi milioni di posti di lavoro le proposte concrete che ha fatto finora, comprese quelle che ha fatto oggi, diciamo così, che i numeri gli escono facilmente, li dà facilmente, 25 milioni di posti di lavoro, a volte li cambia anche in modo molto rapido, nel documento, diciamo, introduttivo al suo discorso di oggi, i suoi diciamo così, economisti avevano rivendicato che sarà in grado di far crescere l'economia del 3,5%, ricordiamo che adesso sta crescendo meno del 2%, ecco, lui, diciamo, pochi secondi dopo, parlando, ha già subito corretto il numero al rialzo, dicendo: sì, i miei economisti non vorrebbero dirlo, ma io riuscirò a farla crescere almeno del 4%. Accidenti. Marco, pazzesca. Non si vede dal 2000. Allora, Trump, dal suo medico, è stato definito in eccellente salute, semplicemente sovrappeso, qualcuno ha detto obeso, e col colesterolo alto. Mi ci dici solo in una battuta, in questo minuto che manca, perché ha così importanza sapere? Adesso lui dice: io presenterò il mio certificato medico, vedo anche i dati sul colesterolo, eccetera, insomma, dice: sto bene. Dici solo perché è così importante negli Stati Uniti, se uno non ha proprio una malattia terribile? Ma diciamo che l'importanza delle condizioni di salute è cresciuta negli anni con anche la personalizzazione delle campagne elettorali, con l'attenzione al candidato che è cresciuta, diciamo, coi media e poi coi social media. Però in questo caso c'è una ragione particolare, perché sia Hillary e Trump sarebbero due dei più anziani candidati mai eletti alla presidenza degli Stati Uniti. Trump sarebbe addirittura il più anziano in assoluto, a 70 anni. Perché Reagan ne aveva 69. Hillary sarebbe la seconda in assoluto, ne ha 69, poco più giovane di Reagan quando venne eletto presidente. Quindi diciamo così che una certa preoccupazione, o comunque domanda di trasparenza, sulle condizioni di salute, sulla capacità fisica di questi candidati appunto di quest'età di poi sopportare i rigori del mandato presidenziale, ha una sua legittimità. Certamente. Grazie Marco Valsani, ritorna. Grazie Marco. Quindi il termine è trasparenza, politica italiana, abbiamo parlato prima, politica con diciamo sfaccettature diverse, politica americana. Bene, ci dobbiamo lasciare, aggiornamenti per chi sta viaggiando, e torno tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E siamo adesso allo spazio europeo, dove si parla del congedo parentale in Europa. Youzone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Il paese migliore dove diventare mamma? La Svezia. Lì i genitori possono chiedere fino a 480 giorni di congedo parentale, quasi un anno e mezzo, mantenendo l'80% dello stipendio, e madri e padri sono incoraggiati a dividersi equamente questo periodo. A parte la Papua Nuova Guinea, in fondo alla classifica troviamo gli Stati Uniti, dove le mamme possono chiedere 12 settimane di congedo, ma senza paga. E in Europa? I genitori non ricevono sempre lo stesso trattamento. Il motivo è semplice: il congedo parentale è regolamentato a livello nazionale. In Italia, ad esempio, le cose non vanno poi tanto male. Le neomamme hanno diritto al congedo da 2 mesi prima a 3 mesi dopo il parto, con l'80% dello stipendio, con la possibilità di richiedere in qualsiasi momento e da uno qualsiasi dei due genitori ulteriori 6 mesi al 30% dello stipendio. Da molto tempo si parla del congedo parentale, ma continua a non funzionare, soprattutto nel caso del congedo di paternità. Rispetto al congedo di maternità, infatti, solo l'1% dei padri prende il congedo. Perché in pratica non funziona? La remunerazione è un aspetto chiave per garantire il congedo di paternità, perché le donne in Europa sono relegate per tradizione alla sfera sociale, mentre gli uomini alla sfera economica. Con il suo rapporto votato a maggio a Strasburgo, l'eurodeputata socialista Maria Arena chiede all'UE di fare del congedo una priorità. Il congedo parentale deve essere remunerato affinché sussista una suddivisione equa fra vita privata e lavoro fra uomini e donne, eliminando la discriminazione delle donne al lavoro. Oggi c'è questo ostacolo. Se ci fosse una ripartizione migliore, come nei paesi scandinavi, ci sarebbe meno discriminazione, più diversificazione nelle imprese, e le imprese con maggiore diversità si posizionano meglio in termini economici. Sarebbe una situazione vincente per tutti. Alcuni Stati membri non riescono a implementare le direttive per diversi motivi, a partire da una mentalità conservatrice fino ad arrivare a considerazioni economiche. Alcuni Stati membri non considerano il congedo retribuito un investimento, ma un costo. Due ostacoli non facili da superare con la semplice attività di persuasione. Non si tratta solo di buon senso. Il congedo parentale va anche retribuito. Bisogna suggerire i diversi vantaggi del congedo parentale retribuito e le modalità di organizzazione, sistemi di previdenza e contribuzione e tutela sociale dei genitori in congedo parentale. Sulla base di questi esempi si può mostrare agli stati più riluttanti che il sistema altrove è stato implementato e funziona bene. Quindi il Parlamento chiede agli stati membri di implementare dei sistemi che tutelino le donne nelle loro scelte riguardanti la vita privata e il lavoro. Questi sistemi ovviamente devono includere il congedo di maternità retribuito. Una legislazione a livello europeo e a livello nazionale per garantire alle donne parità di partecipazione. La strada è ancora lunga e quella per garantire il medesimo trattamento ai liberi professionisti lo è ancora di più. Praticamente un'altra storia. Youzone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E ora invece puntiamo dritto verso Venezia, dove alla Galleria Internazionale d'Arte Moderna c'è una bellissima mostra dedicata a Coco Chanel, una donna che ha segnato la moda per sempre, una rivoluzionaria, ma si intitola la mostra La donna che legge, perché è stata anche una grande intellettuale, una donna che ha conosciuto successi e grandi sconfitti. Adriana Fracchia, che è lì per noi, che dice Adriana? Ciao Roberta, hai già detto tutto tu, dal 17 settembre all'8 gennaio qui a Capesaro, una bellissima mostra appunto intitolata, come hai ricordato, Coco Chanel, La donna che legge. Settimo ed ultimo appuntamento di una serie di mostre già realizzate in varie città del mondo. Infatti la prima è stata Mosca nel 2007, poi Shanghai Pechino nel 2011, Canzone Parigi nel 2013, Seoul nel 2014 e ora Venezia, che era una città che Coco Chanel notoriamente adorava. Questa mostra è stata curata da Jean-Louis Thomas, come tutte le altre, racconta appunto l'amore che aveva Coco Chanel per i libri, per la letteratura, soprattutto per la poesia. Ricordo che in questa mostra ci saranno 350 pezzi molto rari che popolavano l'appartamento di Coco Chanel in Rue Cambon a Parigi, che sono stati appunto raccolti dal curatore dai flaconi di profumo del mitico Chanel numero 5 a dei bellissimi abiti di Lagerfeld che porta ancora avanti la Maison Chanel, e poi una edizione molto rara di una vita di Guy de Maupassant, scritto nell'83, anno di nascita della stessa Coco Chanel, un'edizione manoscritta, questa ancora più raro da vedere, di Flaubert di Madame Bovary. Ospite VIP della serata è Mira Knightley, che è notoriamente testimonial della Maison Chanel. Che dire, una mostra davvero che vale la pena di venire a visitare, anche perché Venezia è una città meravigliosa e in questo caldo settembre merita una visita. Grazie Adriana Fracchia, ricordo che tra l'altro Chanel ha fatto questo percorso di vita professionale straordinario partendo, pensate, dall'orfanotrofio dove era stata abbandonata. E noi ci dobbiamo abbandonare così momentaneamente, perché poi vi riaggiorno, lo sapete, brevemente alle 22.